Si usa dire che la prudenza non è mai troppa. In effetti, nonostante tutti i nostri sforzi per comportarci bene, sbagliamo, offendiamo, ci ammaliamo. Occorre vigilare, stare attenti, perché la nostra naturale inclinazione all'errore ci porta a sbagliare alla minima distrazione. Così è anche nel campo spirituale. Soprattutto nel campo spirituale. Proprio perché siamo inclini all'errore, nella parola di Dio troviamo frequenti esortazioni a vigilare ad ogni piè sospinto e in ogni parola pronunciata. Non solo. Gesù stesso più volte ha invitato i suoi discepoli e tutti gli altri, fra i quali siamo anche noi, a stare allerta nel proprio comportamento religioso. Prendiamo dunque in esame l'ordine di Gesù e della parola di Dio con un cuore riconoscente, perché è possibile evitare tanti ed inutili dolori. La vita di per sé è già cosparsa di difficoltà e se a queste si aggiunge la nostra mancanza di vigilanza, essa può diventare un peso anche insopportabile al punto che alcuni sono ricorsi all'estremo gesto del suicidio. Molto probabilmente queste persone non hanno vigilato sulla condotta della loro vita. Forse non conoscevano l'ordine di Gesù di vigilare, ma chi legge la parola di Dio non può avanzare nessuna scusa riguardo a certi errori dei quali Gesù ha avvertito. Il credente deve essere grato a Dio perché è stato avvisato di certi pericoli. E la sua saggezza starà nel conoscere tutti questi avvertimenti e riportarli alla mente nelle circostanze della vita. In effetti non è soltanto importante conoscere un avvertimento, soprattutto bisogna metterlo in pratica. Consideriamo dunque le cose sulle quali dobbiamo vigilare. 1. Dobbiamo vigilare quando facciamo del bene, Matteo 6.1. Gesù disse: guardatevi dal fare la vostra elemosina davanti agli uomini, per essere da loro ammirati, altrimenti voi non ne avrete ricompensa presso il Padre vostro, che è nei cieli. L'ordine di Gesù di stare attenti, quando si fa l'elemosina, riguarda ogni forma di bene fatto al prossimo. Se Gesù ci ha avvertiti significa che siamo tendenti a voler essere lodati e considerati per i gesti che compiamo, malattia questa, che è incurabile fino al giorno della nostra morte. Il credente saggio rifugge ogni forma di applausi, è contrario alle lodi del mondo e dei religiosi, è maldisposto quando grandi folle lo seguono. Se il discepolo non è più del suo maestro, come l'apostolo Paolo, troverà piacere in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo. Perché, quando è debole, allora è forte. 2 Corinzi 12.10. 2. Dobbiamo vigilare dai falsi profeti, Matteo 7.15-20. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie uva dalle spine o fichi dai rovi. Così ogni albero buono produce frutti buoni, ma l'albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può dare frutti cattivi, né un albero cattivo dare frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Voi dunque li riconoscerete dai loro frutti. Di persone che sostengono di parlare da parte di Dio ce ne sono e ce ne saranno sempre. Anzi, secondo quello che ha detto Gesù prima del suo ritorno, sorgeranno molti falsi profeti che svieranno molte persone dalla verità, perciò l'inganno di essere sedotti nell'errore è più frequente di quanto sembra. Dobbiamo essere grati a Gesù perché ha dato a chi ha posto fede in Lui il modo per individuare i falsi profeti, e cioè il loro modo di comportarsi. Ricordiamo che i falsi profeti non sono necessariamente persone ostili e malvagie, perché Gesù li ha individuati in lupi rivestiti da pecore, e le pecore non sono animali pericolosi che terrorizzano. Però i falsi profeti producono frutti cattivi, il che vuol dire che il loro comportamento non è secondo il volere di Dio. Abbiamo noi verificato o stiamo verificando se coloro che ci parlano da parte di Cristo mettono in pratica ciò che è scritto nella parola di Dio? Se non conosciamo la parola di Dio, com'è possibile smascherare i falsi profeti? 3. Dobbiamo vigilare guardandoci dagli uomini malvagi. Matteo 10:1-6:20. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate dunque prudenti come serpenti e semplici. Come colombe, punto, ma guardatevi dagli uomini, perché vi trascineranno davanti ai loro sinedri e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti ai governatori e davanti ai re, per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai gentili, quando essi vi metteranno nelle loro mani. Non preoccupatevi di come parlerete o di che cosa dovrete dire, perché in quella stessa ora vi sarà dato ciò che dovrete dire, poiché non sarete voi a parlare, ma lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Per molti sembrerà strano, ma la vita cristiana è principalmente una vita di sofferenze e di pericoli. Gesù ha detto ai suoi di stare attenti dagli uomini. Il cristiano non deve essere maligno, ma deve considerarsi come una pecora in mezzo ai lupi, perciò deve essere prudente come una colomba, cioè deve volare via al minimo pericolo. È vero che i tempi di oggi non sono come quelli dei primi secoli quando i cristiani andavano in pasto ai leoni, ma ancora oggi vi sono persone che disturbano chi predica il puro Evangelo. Il cattolicesimo e l'Islam sono molto comprensivi quando si trovano in minoranza, ma dove vi è la maggioranza, perseguitano ancora oggi con false accuse chi predica il messaggio dell'unicità di Cristo. Gesù ha avvertito i suoi seguaci del pericolo, ma li ha pure consolati dicendo di non essere ansiosi di quello che avrebbero dovuto dire, perché lo Spirito Santo avrebbe parlato tramite loro. Chi crede a ciò che ha detto Gesù sperimenta questa verità anche nelle piccole cose. Il cristiano ama tutti gli uomini, ma da tutti si deve guardare. 4. Dobbiamo vigilare affinché nessuno ci inganni. Matteo 24:4-5. E Gesù disse loro: guardate che nessuno vi inganni, poiché molti verranno nel mio nome, dicendo: io sono il Cristo, e molta gente sarà tratta in inganno. Dobbiamo prendere sul serio l'avvertimento di Gesù. Per prima cosa dobbiamo accettare che siamo vittime dell'inganno, e questa non è una novità, perché in ogni settore della vita l'inganno è alle porte: negli affari, nelle relazioni sentimentali, sul lavoro. Inoltre l'inganno non arriva da una fonte sconosciuta o da persone di altre fedi, ma nell'ambito di chi fa professione della nostra stessa fede, e cioè da ciò che viene professato cristianesimo. Gesù ha avvertito i suoi che molte persone, da notare che Gesù ha detto molte, si sarebbero presentate ai credenti sotto le spoglie dell'autorità di Cristo, dicendo addirittura che esse stesse sono il Cristo tanto atteso. Sembra assurdo, ma molte persone saranno ingannate da questi personaggi e crederanno ciecamente a loro. Al giorno d'oggi, forse non vediamo questo pericolo. Nel cattolicesimo, però, molti non si dichiarano il Cristo, è vero, ma affermano di esserne il vicario. Alla luce delle parole di Gesù, la cosa fa pensare e tremare. 5. Dobbiamo vigilare, perché saremo giudicati allo stesso modo nel quale giudichiamo Marco. 4.2.4. Gesù disse ancora alle folle: fate attenzione a ciò che udite. Con la stessa misura con la quale misurate, sarà misurato a voi, e a voi che udite sarà dato di più. Le relazioni con il prossimo sono inevitabili, come sono inevitabili i nostri giudizi. Anche in questo campo Gesù ha ordinato di vigilare, di stare attenti, di fare attenzione, perché lo stesso atteggiamento di severità o di misericordia che avremo nei confronti del prossimo sarà usato verso noi stessi. Se non sappiamo sopportare il nostro coniuge, non saremo sopportati. Se non sappiamo perdonare una offesa, non saremo perdonati. Se malediciamo il prossimo, saremo maledetti. Non sempre vediamo l'immediato risultato del nostro comportamento, ma Gesù ci ha avvertiti che dobbiamo vigilare nei nostri giudizi. Lui lo ha detto, ma noi stiamo veramente attenti come giudichiamo il prossimo? Una cosa è ascoltare le parole di Gesù, altra è metterle in pratica. Conviene pregare come pregò qualcuno: Signore, fa che le mie parole siano tenere e dolci, perché Può darsi che domani debba rimangiarmele. 6. Dobbiamo vigilare dalle false dottrine. Matteo 16.6-12. E Gesù disse loro: state attenti e guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei. Ed essi ragionavano fra loro, dicendo: è perché non abbiamo preso del pane? Ma Gesù accortosene disse loro: o uomini di poca fede, perché vi scutete tra di voi per non aver preso del pane? Non avete ancora capito e non vi ricordate dei 5 pani per i 5.000 uomini e quante ceste ne avete raccolto? E dei 7 pani per i 4.000 uomini e quanti panieri ne avete riempito? Come mai non capite che non mi riferivo al pane quando vi dissi di guardarvi dal lievito dei farisei e dei sadducei? Allora essi capirono che egli non aveva detto di guardarsi dal lievito del pane, ma dalla dottrina dei farisei e dei sadducei. Oggi si parla poco di dottrina. Si guarda la spontaneità, ciò che unisce, quello che non turba il prossimo. Ma Gesù non ha avvertito coloro che hanno posto fede in lui di stare attenti alle false dottrine? Prendere sul serio le parole di Gesù significa che i musulmani sbagliano quando affermano che Gesù Cristo non è Dio, che sbagliano i testimoni della torre di guardia quando sostengono che Gesù è un Dio inferiore al Padre, che sbagliano i cattolici quando sostengono che Maria è l'Immacolata Concezione. I farisei dei quali Gesù ci mette in guardia erano religiosi e dalla falsa religione che dobbiamo guardarci. 7. Dobbiamo vigilare dalla ipocrisia. Luca 12:1-3. Nel frattempo, essendosi radunata la folla migliaia così da calpestarsi gli uni gli altri, Gesù prese a dire ai suoi discepoli: prima di ogni cosa, guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. Ma non vi è nulla di nascosto che non debba essere palesato, né di occulto che non debba essere conosciuto. Perciò tutto quello che avete detto nelle tenebre sarà udito nella luce, e ciò che avete detto all'orecchio nelle stanze interne sarà predicato sui tetti delle case. Non vi è monito così sovente nelle sacre scritture quanto quello di stare attenti all'ipocrisia. L'ipocrisia è una simulazione, e nel campo religioso è fare finta di avere delle virtù cristiane. Si può pregare Gesù Cristo senza dargli però il vero posto che dovrebbe occupare, e cioè senza permettergli di essere il padrone della nostra vita. Il padrone e non un ospite. Quanta autorità hanno le parole di Cristo nella nostra via? Abbiamo il coraggio di ubbidire a Cristo andando contro la cultura religiosa sbagliata? Dobbiamo stare attenti ad avere solo una forma religiosa e non una vita pienamente consacrata a Cristo. Una simile trascuratezza costa cara. 8. Dobbiamo vigilare dai religiosi formalisti. Luca 20:45-47. Ora, mentre tutto il popolo stava ascoltando, Gesù disse ai suoi discepoli: guardatevi dagli scribi, i quali passeggiano volentieri in lunghe vesti e amano i saluti nelle piazze, i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti. Essi divorano le case delle vedove e fanno lunghe preghiere per farsi vedere. Essi riceveranno una più dura condanna. Gesù ha sempre messo in guardia coloro che hanno posto fede in lui di stare attenti alle persone religiose. Se prendiamo sul serio le parole del Figlio di Dio, il credente deve stare attento a coloro che professano la religione ufficiale. In questo avvertimento non ha molta importanza quanto sia vera o no la religione ufficiale, perché al tempo di Gesù gli scribi e i farisei professavano la vera religione. Perciò chi vive in una società di cultura cattolica romana dovrà guardarsi dai sacerdoti cattolici. Chi vive in un ambiente protestante dovrà guardarsi dai conduttori spirituali. Chi ha posto fede in Gesù sceglierà come guida spirituale uomini che hanno una condotta umile, uomini che non cercano di mettersi in mostra ed evitano gli applausi degli uomini. Essere osannati dalle folle come il Papa o certi pastori non è un buon sintomo cristiano. 9. Dobbiamo vigilare per non cadere sotto il giudizio di Dio. Atti 13:38-42. Paolo disse: vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunziato il perdono dei peccati, e che, mediante lui, chiunque Chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali non avete potuto essere giustificati, mediante la legge di Mosè. Guardatevi dunque che non vi accada ciò che è detto nei profeti. Guardate, o sprezzatori, meravigliatevi e siate consumati, perché io compio un'opera ai vostri giorni, un'opera che non credereste se qualcuno ve la raccontasse. Ora, quando i giudei furono usciti dalla sinagoga, i gentili gli pregarono che il sabato seguente fossero loro proposte le stesse cose. L'apostolo Paolo ha predicato ovunque e a chiunque il messaggio di Cristo, e cioè il perdono dei peccati, mediante un atto di fede. Però l'apostolo non fermava qua il suo discorso e spesso metteva in guardia i suoi ascoltatori che se non avessero creduto su di loro sarebbe caduto il giudizio di Dio. Questo procedimento nell'esposizione del bellissimo messaggio del Vangelo ormai è andato perduto, perché la maggioranza dei predicatori del Vangelo mettono in enfasi solo l'amore di Dio, senza presentare contemporaneamente anche il giudizio di Dio, che ora è su tutti gli uomini increduli e formalmente religiosi. In effetti, Paolo stava parlando a persone che credevano in Dio, che lo adoravano e gli rendevano il culto, ma erano perdute. Chi ascolta il messaggio del Vangelo deve stare attento di non cadere sotto il giudizio di Dio per non aver creduto a quanto ascolta o legge. 10. Dobbiamo vigilare dalla filosofia Colossesi 2.8. Badate che nessuno vi faccia sua preda con la filosofia, questo fatuo inganno che si ispira alle tradizioni umane, agli elementi del mondo e non a Cristo. Questa traduzione della parola di Dio è tratta da una Bibbia con l'imprimatur cattolico e mette in evidenza la necessità di stare attenti da quella filosofia che si ispira alle tradizioni umane. Chi più del cattolicesimo si rifà alle tradizioni umane? Tutte le dottrine della Mariologia, dei santi, del purgatorio, della remissione dei peccati, della successione apostolica, non si rifanno forse alle tradizioni umane? Chi ha posto fede in Cristo deve guardarsi da tutti i ragionamenti che non mettono al centro Gesù Cristo, quale Salvatore e il Signore della propria fede. Quando una religione o un religioso sostiene di essere il portavoce di Dio, è da evitare sicuramente. Niente è più sicuro. 11. Dobbiamo vigilare dai cattivi operai Filippesi 3.13. Per il resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Per me certo non è gravoso scrivervi le stesse cose. E per voi è una salvaguardia. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. I veri circoncisi infatti siamo noi che serviamo Dio nello Spirito. E ci gloriamo in Cristo Gesù senza confidarci nella carne. In questo scritto l'apostolo Paolo ordina ai credenti di guardarsi o evitare tre cose: i cani, i giudei, religiosi e i cattivi operai. È sufficiente prendere in esame i cattivi operai. La prima cosa che salta all'occhio è che Paolo mette in guardia i credenti da chi lavora e non dai fannulloni. Al tempo dell'apostolo vi erano persone dedite ad insegnare la necessità di essere circoncisi per essere salvati. La circoncisione era un rito religioso millenario, come lo è ora il battesimo per il cattolicesimo romano. La religione cattolica insegna che senza il battesimo non si diventa un figlio di Dio, come la circoncisione senza la quale gli ebrei non avevano il diritto di diventare parte del popolo di Dio. Ebbene, gli operai che insegnano riti religiosi sbagliati sono da evitare. Questi sono i cattivi operai, dediti ad insegnare dottrine sbagliate. 12. Dobbiamo vigilare dall'idolatria. 1 Giovanni 5.19-21. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno, ma noi sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento, affinché conosciamo colui che è il vero. E noi siamo nel vero, nel suo Figlio Gesù Cristo. Questo è il vero Dio e la vita eterna. Figlioletti, guardatevi dagli idoli. L'ordine di stare attenti a non avere degli idoli percorre in tutta la Bibbia. Eppure, se vi è un peccato commesso così di frequente, è proprio questo. Poche persone hanno compreso che al diavolo poco importano certi peccati, a lui interessa che la creatura non si rivolga e non glorifichi il suo creatore. Gli idoli sono tutte quelle persone o cose che prendono il posto di Cristo. Giovanni ha dichiarato che Gesù è il solo ad essere il vero Dio e la verità, e chiunque venera o ritiene la verità altro che Gesù Cristo è un idolatra. Se questa società lo avesse capito, veglierebbe sul suo comportamento idolatra. 13. Dobbiamo vigilare per non fare alleanza con chi non è nato di nuovo. Esodo 34.1-2.17. Guardati dal fare alcuna alleanza con gli abitanti del paese nel quale stai per andare, perché non sia un laccio in mezzo a te. Ma demolite i loro altari, frantumate le loro colonne sacre e abbattete le loro immagini, perché non ti prostrerai ad altro Dio, poiché l'Eterno, il cui nome è il geloso, è un Dio geloso. Non fare alcuna alleanza con gli abitanti del paese perché, quando essi si prostituiscono ai loro dei ed offrono sacrifici ai loro dei, qualcuno di essi ti inviti e tu mangi dei loro sacrifici, e prenda delle loro figlie, non ti farai dei di metallo fuso. Sembra proprio che ciò che ha detto l'Eterno lo abbia detto al muro, perché i figli di Dio continuano a contrarre alleanza sposandosi o facendo affari con chi non ha il timore di Dio. È evidente che non siamo chiamati a frantumare ogni statua, perché tra santi e madonne non basterebbe una vita. Ma chi ha posto fede in Cristo è chiamato a non fare nessun tipo di alleanza con gli increduli, sia essa sentimentale che religiosa. Chi si guarderà da queste cose? 14. Dobbiamo vigilare per non disprezzare i bambini. Matteo 18.10. Guardatevi dal disprezzare alcuno di questi piccoli, perché io vi dico che gli angeli loro vedono continuamente nei cieli la faccia del Padre mio, che è nei cieli, poiché il Figlio dell'uomo è venuto per salvare ciò che era perduto. Se Gesù ha dato l'ordine di non disprezzare i piccoli fanciulli, significa che abbiamo l'attitudine a farlo. Se disprezzare vuol dire considerare indegno della propria stima o attenzione qualcuno o qualcosa, Gesù ha voluto dirci che anche i bambini hanno il diritto della nostra attenzione nel far conoscere loro Gesù Cristo quale Salvatore e Signore. Perciò i credenti devono stare attenti di non trascurare i bambini anche nel campo spirituale, per dare loro la giusta conoscenza del Vangelo, affinché diventino figli di Dio. Se tutti i bambini del mondo conoscessero la persona di Cristo, il mondo stesso sarebbe migliore. 15. Dobbiamo vigilare per non dimenticare il vero Dio. Deuteronomio 8.11-20. L'Antico Testamento non è stato scritto per noi, anche se ciò che è scritto è valido anche per noi. Perciò, tanti ordini dell'Eterno sono rivolti specificatamente per il popolo di Israele. Alcuni di questi, come gli ordini in merito al culto, sono stati addirittura aboliti per il momento. Però vi sono dei principi che sono ancora validi. Uno di questi è di stare attenti di non dimenticare il vero Dio. Guardati bene dal dimenticare l'Eterno, il tuo Dio, giungendo a non osservare i suoi comandamenti, i suoi decreti e i suoi statuti che oggi ti do, perché non avvenga dopo aver mangiato a sazietà e aver costruito e abitato belle case, dopo aver visto le tue mandrie e le tue greggi moltiplicare, il tuo argento e il tuo oro aumentare, tutti i tuoi beni crescere, che il tuo cuore si innalzi e tu dimentichi l'Eterno, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, che ti ha condotto attraverso questo grande e terribile deserto, luogo di serpenti ardenti e di scorpioni, terra arida senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna che i tuoi padri non conoscevano, per umiliarti e per provarti e per farti alla fine del bene. Guardati dunque dal dire nel tuo cuore: la mia forza e la potenza della mia mano mi hanno procurato queste ricchezze. Ma ricordati dell'Eterno, il tuo Dio, perché è Lui che ti dà la forza per acquistare ricchezze, per mantenere il patto che giurò ai tuoi padri, come è oggi. Ma se tu dimentichi l'Eterno, il tuo Dio, per seguire altri dei e per servirli e prostrarti davanti a loro, io dichiaro solennemente contro di voi quest'oggi che per certo perirete. Perirete come le nazioni che l'Eterno fa perire davanti a voi, perché non avete ascoltato la voce dell'Eterno, il vostro Dio. Il benessere è un grande dono di Dio, ma ho conosciuto non poche persone che una volta raggiunto il benessere tanto atteso, o la meta tanto agognata, hanno abbandonato i comandamenti di Cristo Gesù, che che il Dio Trino ci eviti questo peccato, ma da parte nostra dobbiamo stare molto attenti. 16. Dobbiamo vigilare dal limitare gli altri. Deuteronomio 12.29-32. Quando l'Eterno, il tuo Dio, avrà sterminato davanti a te le nazioni che tu stai per andare a spodestare, e quando le avrai spodestate e dimorerai nel loro paese, guardati bene dal cadere nel laccio, seguendo il loro esempio, dopo che sono state distrutte davanti a te, e dall'informarti dei loro dei, dicendo, come servivano queste nazioni i loro dei? Farò anch'io così. Tu non farai così. Con l'Eterno, il tuo Dio, perché con i loro dei esse hanno fatto tutto ciò che è abominevole per l'Eterno che egli detesta. Hanno persino bruciato nel fuoco i loro figli e le loro figlie, in onore dei loro dei. Avrete cura di mettere in pratica tutte le cose che vi comando, non vi aggiungerai nulla e nulla toglierai da esse. Imitare gli altri è istintivo, e anche il credente è tentato a non voler essere diverso. Calato nella realtà quotidiana, significa che il credente avrà un linguaggio non sboccato, si vestirà non mostrando parti del corpo non lecite. E questo ovviamente è diretto alle ragazze. È un grande laccio seguire l'esempio degli altri nelle cose illecite, e chi teme Dio è disposto ad essere disprezzato e deriso per adeguarsi alla volontà di Cristo. Essere approvati dalla società e non da Cristo è una delle grandi trappole del diavolo, trappole evitate da chi segue Cristo. 17. Dobbiamo vigilare per non essere di inciampo ad altri. 1 Corinzi 8.9. Badate che questa vostra libertà non divenga un intoppo per i deboli. Amare il prossimo significa non solo fargli del bene, ma anche evitare di fermarlo nel cammino della fede. A volte una certezza e una certa libertà non può essere espressa per il bene di chi ci sta accanto. Così, il credente deve vigilare o stare attento a non offendere altri con le sue certezze, a non porre un ostacolo che lo fermi. Non è una cosa facile, non sempre sarà possibile, ma chi prende sul serio le parole di Gesù, vigila sul suo cammino e farà ogni cosa per l'edificazione di tutti. La chiamata del cristiano non è solo quella di camminare in pura coscienza, ma anche di tener presente le debolezze dei deboli. Chi non riguarda con attenzione al prossimo per non offenderlo, non è spinto da quella carità che ha abitato in Gesù. 18. Dobbiamo vigilare dall'adorare altri all'infuori di Cristo Gesù. Apocalisse 22.8.9 e 19.9.10. E io, Giovanni, sono colui che ho visto e udito queste cose. E dopo averle udite e viste, caddi per adorare davanti ai piedi dell'angelo che mi aveva mostrato queste cose. Ma egli mi disse, guardati dal farlo. Io sono conservo tuo e dei tuoi fratelli, i profeti, e di coloro che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio. Per un religioso è spontaneo adorare o venerare qualcuno più grande di lui, e per questo Giovanni per due volte voleva prostrarsi davanti all'angelo, ma giustamente l'angelo lo invitò ad adorare colui che solo ne è degno, cioè il Dio Trino. In una nazione dove vi è la supremazia del cattolicesimo romano, forse queste parole cadono nel vuoto, ma rimane comunque l'avvertimento di Dio a stare attenti, a adorare solo il Dio Trino. L'uomo può disubbidire continuando ad adorare e venerare Maria e i santi creati dagli uomini, ma per lui rimane una severa pena. Il Dio delle retribuzioni è fedele. 19. Dobbiamo vigilare per non avere un cuore malvagio. Ebrei 3.12. State attenti, fratelli, che talora non vi sia in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo, che si allontani dal Dio vivente. Chi è che pensa di avere un cuore malvagio? Nessuno. Eppure la parola di Dio avverte di stare attenti di non avere un cuore malvagio. Com è un cuore malvagio? È colui che compie omicidi, adulteri, che bestemmia Dio, che perseguita la Chiesa come l'Apostolo Paolo? No, l'autore della lettera agli Ebrei definisce un cuore malvagio chi si allontana dal Dio vivente. Chi non conosce persone che hanno fatto professione di fede e poi hanno rinnegato con la loro condotta ciò che professavano? Quante persone che noi ritenevamo figli di Dio e poi sono tornati alla vita di prima, senza Dio e senza Cristo? Ho presente una ragazza che era uscita dalla droga mediante un atto di fede in Cristo, per poi tornarvi di sua spontanea volontà dicendomi che ne usciva quando voleva? Ma ancora oggi è nella morsa della droga. Inoltre, ho presente una donna che portava fiori davanti ad una immagine che raffigurava la Madonna dicendomi che non era nulla di male, ma in seguito ha perso la fede in Cristo, quale unico Signore e Salvatore. Dobbiamo stare attenti a non avere un simile cuore che si allontani da Cristo. 20. Dobbiamo vigilare per non rigettare la parola di Dio. Ebrei 12.25. Guardate di non rifiutare colui che parla, perché se non scamparono quelli che rifiutarono di ascoltare colui che promulgava gli oracoli sulla terra, quanto meno scamperemo noi, se rifiutiamo, di ascoltare colui che parla dal cielo. Altro avvertimento, altro pericolo. Milioni e milioni di persone ogni giorno ascoltano la parola di Dio. Ma la maggior parte di essa cade in cuori increduli, e così il maligno porta via la parola in modo che essa venga dimenticata. Altri ascoltano la parola di Dio, l'accettano volentieri, si rallegrano del messaggio del Vangelo, ma quando si tratta di rimanere fermi nella verità al prezzo della derisione, del disprezzo e degli affetti più cari, allora la rifiutano. Altre volte la parola di Dio viene udita da persone che l'accettano e porta un certo frutto, ma la loro fede viene fermata dalle sollecitudini della vita, dalle comodità che offre il mondo, dai piaceri che sono a disposizione. Il pericolo di rifiutare la parola di Dio è sempre presente e vale la pena stare attenti perché non vi è perdono per chi non accetta di vivere da perdonato. 21. Dobbiamo vigilare per non essere avari. Luca 12.15. Poi Gesù disse loro: fate attenzione e guardatevi dall'avarizia, perché la vita di uno non consiste nell'abbondanza delle cose che possiede. Parlando di denaro si porta in evidenza la sorgente di ogni male. Non occorre molto per comprendere che in fondo ogni azione dell'uomo è motivata dall'interesse anche, e soprattutto, nel campo religioso. Gli uomini servono il loro Dio per ottenere la salvezza. I religiosi ufficiano i loro doveri per denaro. Non è forse una cosa vergognosa che si debba pagare per essere battezzati, per essere sposati e per essere sepolti? Qualcuno dirà che non è una paga che si offre al sacerdote cattolico, ma è un giro di parole perché di fatto alla fine di soldi bisogna darne. 22. Dobbiamo vigilare per non perdere il premio. 1 Giovanni 1.8. Fate attenzione a non perdere il frutto delle cose compiute, ma fate in modo di riceverne una piena ricompensa. Questo ultimo avvertimento, sulle cose delle quali dobbiamo vigilare, chiude il cerchio degli altri aspetti presi in esame. Chi vuole non perdere il premio deve vigilare, stare attento, perché è possibile perdere il frutto del proprio lavoro. E non vi è nulla di più deludente, come non vi è nulla di più deludente per un contadino lavorare la terra e non raccogliere nulla. Che io viva in modo tale da ricevere piena ricompensa. Dicembre 2005. Ellero.